Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti, da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia. È una giornata davvero di attesa su molti versanti, forse lo è particolarmente per l'Italia rispetto alle altre piazze finanziarie internazionali. Appese, come sempre capita appunto in circostanze come quelle degli ultimi giorni, alle decisioni delle banche centrali. Ne abbiamo parlato lungamente anche nella puntata di ieri, oggi si è replicato più o meno lo stesso copione e Mario Draghi non ha mandato deluse le attese appunto della comunità finanziaria degli economisti, appunto degli analisti, perché ha detto che i tassi di interesse, mantenendoli a livello attuale dello 0,50%, rimarranno così bassi a lungo e forse saranno anche più bassi, quindi aprendo di nuovo la porta ad un possibile taglio, ad una possibile sforbiciata nelle prossime settimane. C'è chi è abbastanza convinto che questo taglio lo farà dopo le elezioni tedesche di fine settembre. Ci sono tante indicazioni interessanti che Mario Draghi ha rilasciato nella conferenza stampa che ha seguito la decisione sui tassi di interesse. La ripresa dell'economia dell'Eurozona è graduale e sarà graduale nel resto dell'anno, finché l'inflazione sarà debole e quella che c'è adesso nell'Eurozona è sostanzialmente estremamente sostenibile, non ci sarà un rialzo dei tassi, però appunto ha denunciato ancora una volta, continua a peggiorare la condizione di credito alle imprese. Lo sentiremo tra poco nel commento che faremo anche con il corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Di che cos'altro parleremo? Ci soffermeremo possibilmente a lungo sulla giornata di borsa, perché sono giornate fitte di appuntamenti per la comunità finanziaria, visto che le società stanno rassegnando le proprie trimestrali, anzi conti del semestre. A questo punto oggi sono stati diffusi dati di veri e propri big, appunto, delle società quotate a Piazza Affari. Per qualcuna il mercato ha bocciato i conti, pur essendo assolutamente incredibili, perché per esempio per Generali i conti del semestre sono stati in assoluto i migliori da 5 anni a questa parte, eppure il titolo è il secondo peggior titolo in questo momento della seduta a Milano e sta perdendo 1,5 punti. Il peggiore di tutti però è Finmeccanica, stessa cosa per i conti e per altre indicazioni appunto fornite oggi dai vertici della Società Aerospaziale Italiana, -2,60. Quali conti invece ha premiato il mercato? Quelli di Eni, che è in rialzo a Milano di oltre 3 punti percentuali. Svettano però quasi tutte banche oggi a Milano, anzi in questo momento vedo che il testimone lo raccoglie Prismian, +5,63%, Popolare dell'Emilia Romagna +5%. Insomma, non vi svelo altro sulla giornata di borsa perché tutti i dettagli li racconteremo più tardi. Poi, se ce la facciamo, perché vi devo anche anticipare questa notizia, probabilmente se arriverà entro il contenitore Focus Economia appunto la sentenza della Cassazione sul processo Mediaset, probabilmente interromperemo appunto il commento della giornata economico-finanziaria per dare la linea ai colleghi della redazione, fare l'approfondimento e la diretta appunto sulla pronuncia dei giudici appunto della Cassazione, per cui vi avviso già, non rimanete male se interromperemo Focus Economia. Se invece riusciremo a farla tutta finale 18, parleremo anche del nuovo redditometro. Sono arrivate delle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate che hanno voluto un po' rassicurare anche tutti quei contribuenti che temono di finire eccessivamente sotto la lente del fisco, e quindi vi racconterò appunto quali sono le precisazioni che sono state fatte su questo strumento di accertamento appunto fiscale, questo strumento di lotta all'evasione fiscale nel nostro paese. Poi vi presenterò anche un'iniziativa del Sole 24 Ore che parte domani ed è un check-up quotidiano che per tutto il mese di agosto il Sole 24 Ore farà sul portafoglio delle famiglie italiane, aiutandole appunto a controllare un po' come stanno andando i risparmi in questo momento e quali sono le soluzioni più idonee da adottare in fasi di mercato come quella attuale. Quindi tante cose anche stasera. Se le volete commentare con noi potete farlo al 349-238-6666. Adesso le notizie in breve. Le materie prime, prima di tutto, oro oggi in calo sui mercati sui $1,322 l'oncia, il petrolio a New York ha aperto in rialzo anche abbastanza consistente a $107,2 al barile. E questo nella giornata in cui, proprio a proposito di petrolio, le società del settore stanno comunicando i risultati. Noi vediamo un po' che cosa ha detto quella di casa nostra, il cane a sei zampe, Eni, che ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 1.820 milioni di euro, in ribasso del 51% rispetto allo stesso esercizio dello scorso anno, inclusa appunto la perdita di Saipem contabilizzata nel secondo trimestre. Il gruppo ha proposto, il CDA, il Consiglio di Amministrazione del gruppo, ha proposto agli azionisti un acconto di dividendo di 55 centesimi di euro per azione. Va segnalata anche un'altra cosa che riguarda sempre Eni. Il gruppo ha effettuato un'importante scoperta di olio e gas nell'offshore del Congo, nel prospetto esplorativo Nene Marine, situato a circa 17 chilometri dalla costa. Lo comunica appunto la società, precisando di stimare i volumi della scoperta, provati con i due pozzi sinora perforati, in circa 600 milioni di barili di olio e 20 miliardi di metri cubi di gas in posto. La struttura, ha precisato la società, ha un considerevole potenziale aggiuntivo che verrà valutato con altri pozzi di delineazione. Andiamo in Francia, dove le banche non potranno più speculare sul mercato dei derivati legati alle materie prime agricole. La nuova legge che riforma il sistema finanziario transalpino vieta infatti la costituzione di stock fisici di grano o di mais al solo scopo di influenzarne i prezzi. Gli istituti di credito inoltre dovranno riferire ogni giorno all'autorità francese dei mercati finanziari i dati relativi alle posizioni assunte in merito a questi strumenti. Qualora lo stesso organismo di controllo dovesse riscontrare comportamenti giudicati non conformi alla normativa, potrà imporre sanzioni e anche limitare le operazioni. Andiamo al mercato, perché oggi abbiamo parlato appunto della giornata positiva europea, sempre chiaramente per effetto delle dichiarazioni di Mario Draghi, ma Wall Street anche non scherza e lo Standard & Poor's in questo momento è in rialzo dello 0,9%, ma la notizia importante è che questo indice è volato oggi oltre i 1700 punti, è un livello intraday appunto che non era mai stato raggiunto da questo paniere americano, un andamento che riflette l'entusiasmo degli investitori all'indomani del termine della riunione della Banca Centrale Americana, che ha lasciato invariato il piano di acquisto mensile di bond e anche i tassi di interesse. Magari segnaliamo velocemente cos'altro ha detto anche la Federal Reserve ieri sera. Ha detto che la crescita dell'economia americana nel primo semestre ha avuto un ritmo modesto, forse per questo appunto i tassi devono continuare a rimanere appunto così bassi, e poi appunto il programma di acquisto di bond da 85 miliardi di dollari al mese ha promesso la Fed al momento rimane invariato. Oggi sono stati diffusi anche alcuni dati macro dagli Stati Uniti, ne diamo conto perché sono tutti piuttosto rilevanti. L'indice PMI, che monitora l'attività manifatturiera, è salito a luglio a 53,7 punti da 51,9 del mese precedente, un dato migliore delle attese. L'indice ISM manifatturiero negli Stati Uniti è a luglio, è salito a 55,4 punti da 50,9, anche in questo caso un dato che ha battuto le attese del mercato. Altro dato molto buono, i sussidi settimanali di disoccupazione che sono scesi ai minimi da 5 anni a questa parte. Le richieste sono diminuite di 19.000 unità la scorsa settimana a quota 326.000 da 345.000 della settimana precedente. È il livello più basso da gennaio del 2008. Finmeccanica si sfila dal contest per lo sviluppo del nuovo elicottero presidenziale degli Stati Uniti. La Augusta Westland, controllata del gruppo italiano, ha rinunciato infatti alla candidatura dei suoi velivoli per la selezione avviata dalla US Navy, la Marina americana. Per aggiudicarsi la commessa, la società aveva fatto squadra con il colosso statunitense Northrop Group, siglando nel 2012 l'accordo per una joint venture. Ma Augusta Westland appunto ha deciso di uscire perché i requisiti della Marina avrebbero favorito gli altri concorrenti. In un comunicato dell'azienda si legge che ci sono parametri di valutazione che, dice testualmente il testo appunto, crediamo inibiscano la nostra possibilità di presentare un'offerta competitiva. Ancora un paio di notizie prima del primo approfondimento di oggi. Il salvataggio della Grecia presenta un buco di circa 11 miliardi di euro da qui alla fine del 2015, che potrebbe peggiorare se le previsioni si rivelano ottimistiche. Pensate un po'. E i partner europei potrebbero essere chiamati a prestare ad Atene nuovi fondi o alleggerirne il debito. Lo scrive non uno qualunque, ma il Fondo Monetario Internazionale in un rapporto proprio sulla Grecia. L'impegno dei partner europei ad alleggerire il debito per mantenerlo sul percorso concordato rimane, dice il Fondo Monetario, essenziale. Anche la manifattura italiana va bene, non solo quella statunitense. L'indice dei direttori acquisti manifatturiero italiano torna a segnalare crescita del settore per la prima volta, pensate, in 2 anni. Da qualche giorno, insomma, qualche piccolo segnale buono sta arrivando anche del nostro paese. Questo dato ha segnato a luglio 50,4 punti da 49,1 di giugno. Perché è così importante? Perché l'indice oltrepassa i 50 punti, il che significa che l'economia si sta indirizzando nel territorio di espansione economica. Sotto i 50 punti si parla di contrazione, per cui abbiamo oggi questa buona notizia. Non va tanto bene però per chi lavora nel settore turistico, perché la crisi sta causando molta disoccupazione anche sulle spiagge. A farne le spese giovani universitari che in questo periodo lavorano come camerieri, bagnini, parcheggiatori. Oltre 10.000 di loro quest'anno sono rimasti a casa per mancanza di offerta, ma anche gli altri lavoratori stagionali sono in forte diminuzione. Questa è la denuncia che è arrivata oggi dal sindacato italiano Balneari. Ultima notizia riguarda la Indesit. Nonostante tutto, dalle vostre maestranze buone vacanze. Questo è lo striscione evidentemente ironico che 200 operai Indesit degli stabilimenti di Melano e Albacina hanno esposto davanti al cancello della villa della famiglia Merloni a Bellaluce, a Fabriano, appunto nell'Anconetano. Le tute blu sono arrivate in auto per protestare contro il piano da 1425 esuberi presentato dall'azienda, che è stato anche oggetto molto spesso anche a Roma di confronto fra i sindacati, appunto, e la società, il Ministero dello Sviluppo Economico, ma ancora senza risoluzione. Ci fermiamo con le notizie brevi. Il primo approfondimento di oggi inevitabilmente riguarda Francoforte, la Banca Centrale Europea. Allora, oggi riunione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea che, come largamente nelle attese, ha deciso di mantenere il tasso principale di riferimento invariato allo 0,5%. Ci sono state molte indicazioni anche interessanti offerte da Mario Draghi, presidente della BCE, nella conferenza stampa che ha seguito la decisione sui tassi. Draghi ha promesso non ci sarà un rialzo dei tassi per un periodo prolungato. La BCE si aspetta una ripresa graduale nel resto dell'anno. Sentiamo il primo contributo di Mario Draghi. Our monetary policy stance continues to be geared. La politica monetaria della Banca Centrale Europea continua ad essere accomodante e orientata a promuovere condizioni di stabilità nel mercato monetario. In questo modo sostiene la graduale ripresa dell'attività economica prevista nella rimanente parte dell'anno e nel 2014. Guardando al futuro, la nostra politica monetaria rimarrà accomodante per tutto il tempo che sarà necessario. Il Consiglio Direttivo della BCE si attende che i tassi di interesse rimangano a livello attuale o inferiore per un prolungato periodo di tempo. Questa previsione si basa su prospettive inflazionistiche che rimangono invariate nel medio termine a causa della debolezza economica e delle dinamiche monetarie. Given the broad-based weakness in the economy and subdued monetary dynamics. Non ho salutato, lo faccio subito, Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Allora, diciamo che più o meno Draghi ha recitato un copione che già si conosceva sul mercato, però chiaramente i giornalisti che erano lì a seguire la sua conferenza stampa forse avranno intercettato invece delle considerazioni particolari del governatore, appunto, della BCE, che magari a noi sono sfuggite. È davvero stata una conferenza stampa secondo copione, Alessandro, oppure c'è stato qualche aspetto che in qualche maniera ha colto di sorpresa? Ma diciamo che il vero cambiamento Draghi lo aveva annunciato il mese scorso, quando aveva introdotto quella che si chiama forward guidance, cioè un'indicazione sulle prospettive della politica monetaria, che ha ripetuto anche oggi, cioè che i tassi resteranno a questi bassi livelli o ancora più bassi per un lungo periodo di tempo, e questa è una novità per la Banca Centrale Europea, che aveva sempre dichiarato di non volersi impegnare per il futuro. Oggi Draghi l'ha ribadita, perché in fondo sui mercati i rendimenti restano un po' in tensione, cioè c'è qualcuno che si aspetta che prima o poi comunque la Banca Centrale Europea venga meno a questa promessa. Invece Draghi oggi ha tenuto a ribadirla con una certa forza, quindi credo che questo sia l'elemento principale. E l'altra cosa è che comincia a esserci qualche, Draghi stesso l'ha detto, molto timido segnale di ripresa economica, che secondo il Presidente della BCE conferma un po' le loro analisi, cioè che ci sarebbe stata una ripresa entro la fine di quest'anno e l'anno prossimo. Non ha detto però solamente cose positive Draghi, perché naturalmente non ha mancato anche in questa occasione di puntualizzare quella situazione che come dire, torna ad analizzare quasi sempre in occasioni pubbliche, cioè il mal funzionamento della cinghia di trasmissione appunto del credito dalla banca centrale all'economia reale, perché qua il mercato finanziario si è tranquillizzato, ma l'economia reale ancora non risente, almeno quanto nelle aspettative della appunto di questa maggiore di questa operazione di stimolo monetario che vengono condotte a livello europeo, ma direi anche a livello internazionale. Vi faccio sentire questo passaggio di Mario Draghi sul tema del calo dei prestiti che continua a peggiorare e la stretta del credito alle famiglie resta ancora su livelli alti. Sentiamolo. The annual rate of change of loans to the private sector. Il tasso annuale che misura l'andamento dei prestiti al settore privato si è ulteriormente indebolito. Mentre il tasso che riguarda i prestiti alle famiglie è rimasto stabile allo 0,3% in giugno e praticamente invariato da inizio anno, il dato che riguarda i prestiti alle imprese ha segnato un meno 2,3% dopo il meno 2,1% di maggio. La debole dinamica dei prestiti continua a riflettere soprattutto la situazione del ciclo economico, un elevato rischio di credito e il continuo aggiustamento dei bilanci di banche e imprese. I monitoraggi della BCE confermano che l'incertezza macroeconomica e il rischio restano i fattori che maggiormente frenano i finanziamenti delle banche. Alessandro, qual è il tuo giudizio su questo passaggio? Draghi sa benissimo che il problema non è tanto il tasso, i tassi ufficiali della BCE, ma quelli praticati dalle banche, cioè il problema del credito, i tassi e le condizioni praticate dalle banche alle famiglie e soprattutto alle imprese. Questi continuano a restare molto restrittivi e soprattutto il volume complessivo dei prestiti alle imprese continua a contrarsi. È chiaro che è molto difficile avere una ripresa senza credito. Draghi in altre occasioni ha detto: noi abbiamo cercato di dare abbondante liquidità alle banche, quindi abbiamo fatto la nostra parte per quello che ci riguarda. Oggi ha precisato: è naturale che le banche vogliono aspettare che ci sia qualche segnale di ripresa prima di allargare i cordoni del credito. Rischia di essere un po' un serpente che si morde la coda, in quanto è difficile avere una ripresa senza credito e al tempo stesso il credito aspetta che ci sia la ripresa. Tradizionalmente, certo, per fidarsi sempre di più delle aziende da finanziare naturalmente. Sì, tradizionalmente è sempre avvenuto così, cioè prima parte qualche segno di ripresa, di solito trainata dall'export, e su questo punto Draghi ha detto una cosa positiva, cioè in Italia, Spagna e Germania, oltre che anche in Germania l'export sta cominciando ad andare meglio. Ecco, quindi prima parte qualche segno di ripresa e poi il credito si rimette in movimento perché le banche a quel punto si fidano di più dei loro clienti. C'è un altro aspetto che ha toccato Draghi nella sua conferenza stampa, che forse è meno rilevante, non so, magari che per la casalinga di Voghera, ma che però è molto importante invece per la comunità finanziaria, cioè le attività, diciamo, di comunicazione della banca. In autunno il comitato esecutivo della BCE ha fatto sapere Draghi che presenterà una proposta al consiglio direttivo per migliorare il grado di trasparenza sulle decisioni prese appunto dall'Euro Tower. Perché diversi consiglieri anche si sono espressi di recente a favore della pubblicazione delle cosiddette minute, i verbali, i protocolli delle riunioni, che peraltro, questa è una cosa che non sapevo, l'ho scoperta oggi Alessandro, al momento vengono secretati per 30 anni, negli Stati Uniti invece li pubblicano periodicamente. Perché è così importante questa iniziativa? È importante nel quadro di voler dare ai mercati dei segnali più precisi di come la banca centrale si sta muovendo. È quello che hanno fatto alla BCE il mese scorso con questo annuncio appunto di forward guidance, la stessa cosa ha fatto la Banca d'Inghilterra contemporaneamente nella sua riunione di luglio, cioè le banche centrali vogliono essere il più chiare possibile nei confronti dei mercati, degli operatori economici su quello che faranno, in modo da ridurre al massimo l'incertezza. La BCE però è un caso un po' a parte, perché venivano messi sotto chiave questi verbali per 30 anni, mentre la Federal Reserve in America o la Banca d'Inghilterra li pubblicano nel giro di 3 o 4 settimane. La BCE, Draghi lo ha ricordato, è una banca di 17 stati, dall'anno prossimo saranno 18, quindi c'è il rischio che ognuno di questi governatori che partecipa alle riunioni della BCE, nel momento in cui vengano pubblicate le minute, vengano pubblicati i verbali e si scopra quello che ha detto, rischia di trovarsi sottoposto a delle pressioni molto pesanti di tipo politico a casa propria, perché difenda, diciamo, in un certo senso l'interesse nazionale, mentre la BCE dovrebbe decidere sulla base di quello che è bene o no per tutta l'Eurozona e non per i singoli paesi. Quindi Draghi ha detto: cercheremo di studiare un modo per pubblicare sì questi verbali, ma fare in modo che poi non si accentui troppo la pressione politica sui governatori, perché prendono delle decisioni che fanno piacere magari ai vari politici nazionali. Certo, è una questione anche proprio nazionali relativa all'indipendenza della BCE, sì. Esatto, e quindi credo che saranno cauti su questo fronte, nel senso che è possibile che pubblichino i verbali, ma come fanno per esempio anche alla Fed, senza rivelare chi ha detto cosa, oppure come hanno votato i singoli membri del Consiglio, cosa che invece in Inghilterra si fa apertamente. A proposito di... dicevo, a proposito di Inghilterra, peraltro anche oggi la Bank of England ha tenuto i tassi fermi, punto. Chiusa parentesi, Alessandro. Senti, un'ultima domanda, poi ti lasciamo. Riguarda l'Italia, chiaramente i giornalisti ci provano, ma Mario Draghi è sempre bocca cucitissima su questo tema. Non devo rispondere, devo rispondere come in precedenza, non commento sull'Italia, però ha detto appunto, e quindi ha risposto indirettamente, che non ci sono paesi nell'Eurozona che non abbiano registrato progresso sul risanamento dei conti pubblici. Secondo te è stato un complimento indiretto all'Italia questo? Ma Draghi ha riconosciuto in altre occasioni, magari con riferimenti un po' obliqui, che l'Italia ha fatto dei progressi sul risanamento dei conti pubblici e in parte anche sulle riforme. Questo suo rifiuto di commentare sull'Italia è dovuto al fatto che Draghi sa che in un clima politico molto surriscaldato come quello di casa nostra, ogni sua parola verrebbe immediatamente interpretata come Draghi è per il governo, Draghi è contro il governo, Draghi si schiera con questo, si schiera con quell'altro, boccia, approva, battezza. Insomma, Draghi cerca di tenersi fuori il più possibile da questa competizione politica, diciamo, da questa discussione di tipo politico. Certo, è un po' curioso che il presidente della Banca Centrale Europea, un italiano, dica la sua magari sull'Irlanda o sul Portogallo o sulla Grecia in modo abbastanza aperto, e si senta condizionato dal farlo, sull'Italia, sulla questione italiana. Alessandro, una battuta, la sforbiciata sui tassi la facciamo dopo le elezioni tedesche? Ma a questo momento diciamo che sui mercati c'è una parte degli economisti che se l'aspettano e altri che ritengono invece che la BCE resterà ferma a tempo indeterminato. Io credo che dipenderà molto da come si evolveranno i mercati. Se i mercati a un certo punto non saranno molto convinti di questa forward guidance, di queste indicazioni della BCE per il futuro della politica monetaria, vorranno andare a testare, a provare se le sue dichiarazioni sono vere, quindi spingendo i tassi un po' al rialzo potrebbero indurre la BCE a fare questa manovra di taglio. Di taglio, di nuovo allentamento. Dipenderà molto dai mercati dopo la ripresa estiva, sempre sperando che non succeda niente durante il periodo. Incrociamo le dita, per carità del cielo, non evocare periodi che non vogliamo vedere mai più. Grazie ad Alessandro Merli da Francoforte, buona serata Alessandro. Grazie. Rapidamente adesso in pubblicità e poi ritorniamo per la chiusura della seduta di borsa, più 2% sul finale agganciato da Piazza Affari, a tra poco. Focus Economia. Ed eccoci ritrovati in diretta, sono le 17.35, ancora buonasera da Deborah Losciani. Che si vede qua in borsa? Si vede che sul finale, dopo una giornata positiva per tutta la sua durata, Milano aggancia un rialzo del 2% e adesso allora con la nostra campanella di borsa alziamo appunto il velo su questa giornata finanziaria. E ospitiamo con piacere questa sera per il commento dei fatti del giorno Salvatore Gazziano, direttore investimenti di BorsaExpert.it. Salvatore, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, che cosa è successo negli ultimi minuti? Qua ci siamo sentiti peraltro nel pomeriggio con te per fare un po' il punto della giornata, ma parleremo sicuramente delle trimestrali, quelle che sono andate bene, quelle che sono andate meno bene. Sicuramente li ha diffusi intorno alle 16.30 i suoi dati, sono andati apparentemente molto bene quelli di Prismian, perché segna più 7%. Hai fatto in tempo a controllarli, Salvatore? Sì, sì, Prismian sul finale è stato uno fra i titoli migliori, addirittura ha chiuso con più 7%. Diciamo che sul finale della seduta ci sono visti diversi titoli salire e accelerare dopo le trimestrali, probabilmente anche complice il buon andamento di Wall Street e il fatto che molti dei titoli che sono saliti di più verso il finale sono titoli spesso seguiti anche proprio da investitori stranieri. Prismian in realtà ha pubblicato la semestrale che non è stata a vedere i primi dati eccellente sia come ricavi che come utile, però quello che è apparso più interessante è stato il portafoglio ordini di questa società che è specializzata nella posa dei cavi, che è stato nettamente, credo, superiore alle attese con oltre 2,8 miliardi, quindi in diversi casi, poi vedremo anche il caso di Eni, quello che è stato giudicato molto positivo è stato il fatto di vedere un secondo semestre in grande crescita. Peraltro nel caso di Eni lo stesso Scaroni ha parlato della possibilità di un nuovo buyback che potrebbe parlare nel terzo trimestre. Quindi buyback è un'operazione di riacquisto di azioni proprie? Esatto, esatto. Un segnale che la società crede che il proprio titolo sia sottovalutato e quindi compra le azioni, dovrebbe esserci un beneficio per tutti gli azionisti. Se per primo chiaramente l'azionista di riferimento compra appunto le azioni della sua società, è un evidente segnale di fiducia che poi a cascata si auspica appunto si trasferisca anche ad altri evidentemente investitori. Peraltro, a proposito di Eni, visto che già Salvatore l'ha citata, segnalo più 3,25% sul finale a 17,15 euro. Il gruppo ha anche annunciato che proporrà ai suoi azionisti un acconto di dividendo di 0,55 euro, quindi 55 centesimi di euro. Vado a vedere gli altri migliori titoli della seduta. Bene la Popolare dell'Emilia Romagna, più 5,35, non mi pare che ci siano stati conti oggi. Fondiaria vive di altre vicende e notizie, più 5%. Dopo i conti di ieri, oggi bene anche Fiat Industrial, Salvatore, più 4%, più 4,32. Sì, diciamo che anche questi sono due casi interessanti. Diciamo che Fondiaria in realtà i conti li svelerà il 6 o il 7 agosto, a memoria non mi ricordo, ma intorno a quella data. Però diciamo sono usciti ieri semestrale di Generali Assicurazioni e oggi di Vittoria Assicurazione. Quello che si è evidenziato nel settore è che il ramo danni, che è sempre stato considerato, come sappiamo bene, anche se gli automobilisti, compresi noi, siamo sempre arrabbiati per le polizze. Però siccome le dobbiamo comprare per forza, le polizze, quel business lì è sempre fiorente, no? Esatto. E se, diciamo, quello che sta venendo fuori in maniera molto evidente è che questo ramo danni, che per anni è stato considerato un po' come una zavorra per le compagnie assicurative, in realtà sta producendo molto utile. Tant'è vero che sia Generali, sia soprattutto Vittoria Assicurazione, quindi a questo punto anche il mercato scommette su Fondiaria SAI e quindi per questo il titolo è sicuramente tra quelli oggi stati più comprati, e si aspetta che, siccome Fondiaria Assicurazione attraverso anche Milano Assicurazione tradizionalmente una delle compagnie più forti nel ramo danni, sia proprio quello che possa dare ulteriori diciamo, notizie positive. Su Fiat Industrial diciamo che il mercato, sono piaciute le parole di Marchione, sì, non tutte, qualcuna non tanto, però non si riferisce, ai conti dell'azienda, sì. Sì, stare dietro a tutte le dichiarazioni di Marchionne diciamo che non è facile. È diventato un esercizio complicato, sì. Però sicuramente molte banche d'affari oggi hanno alzato i cosiddetti target price, gli obiettivi di prezzo, perché diciamo che questa società si aspetta che entro la fine dell'anno venga, ci sia il cosiddetto dual listing, sia quotato a Wall Street, non con solo quotata, e comunque i risultati che sono venuti sono stati nettamente superiori alle attese, perché si attendevano, mi pare, 580 milioni di euro di profitto e siamo andati circa 630, quindi diciamo nettamente sopra le attese. Ci sarà un'unica società a settembre, Case New Holland Industrial, se non mi ricordo male, quindi con quotazione a Wall Street come mercato principale. Allora andiamo invece, parlavamo di generali, mi interessa molto appunto l'andamento del Leone di Trieste oggi in borsa, perché i risultati hanno dell'incredibile, anche per la voce che indicavi prima, Ramodanni che va molto bene, ma su generali insomma ci sono molte voci che vanno bene. Il semestre presentato stamattina dall'amministratore delegato Mario Greco è il migliore da 5 anni a questa parte, il titolo era partito bene, poi nella seconda parte ci ha ripensato, tutto sommato tiene sul finale meno 0,6%, su quali aspetti hanno avuto dei ripensamenti gli investitori oggi, Salvatore? Ma riguardo generale assicurazione, quello che forse, perché bisogna sempre cercare di trovare la pagliuzza, quella non buona, nel caso dei conti generali, anche secondo alcuni report che abbiamo visto questa mattina, di cui ci siamo confrontati con i nostri analisti, è stato forse il ramo vita. Anche qua, mentre il ramo danni è un ramo che sta dando soddisfazione anche tutto sommato nel caso di generali, dove comunque c'erano delle attese molto positive, quindi il titolo già nelle scorse settimane era stato fra i migliori da inizio anno, nel caso del ramo vita diciamo il dato è stato circa dell'8-10% inferiore alle previsioni degli analisti, e quindi questo forse è un pochino frenato gli acquisti, perché tutto sommato le notizie positive erano già state scontate nelle scorse settimane. E a Finmeccanica cosa è successo invece? Meno 2% qua, perché i conti non sono piaciuti? Vabbè, Finmeccanica ha tutta una serie di problemi. Finmeccanica, al di là del Airbank che prima hai citato, l'aereo presidenziale americano. Esatto. Mi hai sentito diciamo prima, anche se non eri ancora collegato. Abbiamo capito che il bando di gara, ma questo su cui come potremmo dire che tutto il mondo e il paese era costruito già all'inizio per non far vincere probabilmente la società. Diciamo che i dati di Finmeccanica sono stati abbastanza negativi, sia come perdita che comunque è stato di 62 milioni di euro, quindi comunque la società ancora non in grande, non certo in crescita, e soprattutto anche i ricavi che sono scesi di circa l'1%, ma soprattutto quello che non è piaciuto un po' agli analisti è stato il fatto diciamo il flusso di cassa, nel senso che la società comunque continua a mettere in indebitamento, la società lo giustifica dicendo che è un fattore stagionale che nel secondo semestre migliorerà, però comunque nel caso di Finmeccanica, contrariamente che sia ad alcune controllate come potrebbero essere Ansaldo Trasporti o in altro settore come Prysmian che abbiamo citato prima, gli ordini che sono attualmente in portafoglio sono diciamo giudicati un po' troppo bassi, quindi c'è il timore che l'utile previsto che era stato dato alla società guidance a fine anno non possa essere mantenuta. Andiamo ai casi più piccoli, raccontiamone qualcuno interessante. Iux oggi, miglior titolo di Piazza Affari, questo sito sì, dove Iux si possono comprare più 12%. Più volte anche al rialzo nel finale, diciamo che Iux è il titolo diventato un po' tutto il settore della moda, è il settore diciamo che negli ultimi mesi a livello mondiale fra quello di cui c'è maggiore attenzione. Qua abbiamo il caso di una società italiana specializzata nell'e-commerce che ha visto comunque nella trimestrale i ricavi e la redditività salire in maniera molto forte, e grazie alle vendite sia dei diciamo loro lavorano sia con il famoso portale dove uno può comprare cosiddette multi-brand, sia loro realizzano per importanti casi di moda proprio dei siti verticali per la vendita dei propri prodotti. La cosa diciamo significativa è che comunque la salita di questa società sta stupendo comunque quasi tutte le case d'affari che continuano a aumentare il target price, che è anche un po' una cosa ridicola, di 4-5 euro alla volta, e quindi non ci riescono mai a stare. Hanno le idee chiare se non altro, no? No, dico hanno le idee chiare se non altro. Perché hanno le idee chiare, esatto. L'altra cosa un po' particolare è che il mercato che subisce la maggiore accelerazione non è solo il mercato americano, ma anche il mercato italiano, cioè nel lusso, nella moda, diciamo che le donne italiane non guardano forse il consumo, visto che la maggior parte del loro fatturato arriva da quel canale, ma il mercato italiano si sta svegliando e diciamo è fra quelli che stanno subendo un maggiore crescita. Molto bene, allora qualche buona notizia almeno la possiamo raccontare anche dal punto di vista della borsa. Salvatore grazie per essere stato con noi, ti auguro una buona serata. Grazie a Salvatore Gazziano, direttore investimenti di borsaexpert.it, che ci ha aiutato appunto ad interpretare un po' i temi del giorno a Piazza Affari. Per gli incontentabili vi do anche la variazione percentuale di altre società, almeno quelli che hanno fatto meglio: il Banco Popolare più 4, Parmalat più 4, Unicredit più 3,42, Eni l'abbiamo già detto, Popolare di Milano più 3, Ubibanca più 3, Diasorin più 2,68, insomma qua di segni meno ce ne sono pochi. Oltre a Finmeccanica Generali c'è anche quello di Monte dei Paschi che ha perso lo 0,58%, Salvatore Ferragamo meno 0,39%. Adesso devo andare in pausa, ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, ma naturalmente prima di tutto saluto Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera. Ritorniamo buonasera agli argomenti che innervosiscono gli ascoltatori, parliamo delle novità del redditometro a tra poco. Focus Economia. Io lo so che questo è un tema che tormenta un po' gli amici che ci seguono da casa, che ci scrivono al 349-238-6666, che sono anche fin troppo stanchi di sentir parlare dell'evasione fiscale, di quella che commettono gli altri, perché noi non facciamo mai niente di male naturalmente, e soprattutto sono molto nervosi gli ascoltatori quando parliamo delle modalità con cui il fisco appunto vuole accertare ed individuare, intercettare gli evasori. Parliamo di nuovo di redditometro, lo strumento appunto di accertamento che mette a confronto le entrate e le uscite del bilancio familiare, detto in maniera molto semplice, ma tutto sommato Gianni Trovati, questo è lo spirito appunto di questo strumento. Adesso vediamo in che modo troverà appunto per correggermi. Detto questo, ci sono state due giorni fa delle precisazioni, una circolare dell'Agenzia delle Entrate che ha voluto in qualche maniera rassicurare forse i contribuenti un po' troppo preoccupati appunto di come il fisco accenderà questo riflettore sulle capacità di spesa e la capacità appunto anche di produrre reddito da parte delle famiglie. Che novità ci sono, Gianni? Sì, allora il redditometro è appunto in sostanza lo strumento con cui il fisco misura il reddito presunto, si chiama, del contribuente e del nucleo familiare sulla base delle spese, quelle certe oppure quelle calcolate, diciamo così, che lo stesso contribuente ha fatto nel corso dell'anno soggetto a indagine. Questo è il quadro. Ieri l'Agenzia delle Entrate ha finalmente emanato una lunghissima, cioè una importante, pesante, diciamo così, circolare. Per i depravati delle circolari è la 24/E, così almeno sì, saranno tutti contenti. Per gli amatori esatto. È la 24/E/2013, così l'abbiamo detta tutta, che sostanzialmente affronta alcuni dei temi, diciamo così, che più avevano allarmato i contribuenti, in particolar modo legati a come vengono calcolati gli investimenti, cioè per esempio se io un anno compro una casa, è ovvio che non compro la casa con il reddito prodotto nello stesso anno, dalla fabbrica, certo, quindi c'è un risparmio, diciamo, da ricostruire, esatto, una provvista, così si chiama, da ricostruire. C'è il fatto che c'è una grossa apertura alla fase del primo contraddittorio obbligatorio, nel senso che quando io contribuente risulto non congruo, cioè risulto aver speso più di quanto il mio reddito, ma molto di più, perché poi peraltro il fisco è molto tollerante. Sì, no, infatti ci arriviamo subito. C'è una grossa apertura, diciamo così, alle modalità con cui il contribuente può far valere le proprie ragioni. Non tutto è stato però chiarito, perché per esempio sappiamo tutti che nel diritto l'onere della prova spetta a chi accusa e non a chi si difende. Mm-hmm. La circolare continua a dire che il contribuente può fornire le prove, ma in realtà non deve fornire nessuna prova, perché poi in contraddittorio, se si va in contenzioso, è l'amministrazione a dover provare che io ho evaso e non sono io a dover provare che non ho evaso. E poi c'è ancora una chiusura molto rigida sulla possibilità di applicare il nuovo redditometro alle annualità precedenti al 2009. Sono ancora in corso gli accertamenti, i contenziosi e così via di vecchie annualità a cui è stato applicato il vecchio redditometro, che era uno strumento molto più rozzo, con molti più automatismi, diciamo così, e quindi piaceva meno di quanto potrebbe piacere, diciamo così, il nuovo. L'attuale, che è più sofisticato, ecco. Però non si applica all'indietro e su questo l'agenzia è molto chiusa, anche se la norma in realtà poteva. Però al di là, diciamo, di questi dettagli tecnici, il punto è che sul redditometro si è fatto un grande battage, come giustamente, poi si può discutere se sia giusto o meno arrivare alla ricostruzione del reddito monitorando tutte le spese. Il fatto è che l'Agenzia delle Entrate ieri ha emanato un'altra circolare contemporanea, 25/E/2013, sempre per i nostri appassionati, con cui sostanzialmente l'Agenzia di Roma, Befera, diciamo, dà le istruzioni strategiche per gli uffici del territorio per dire: quando fate gli accertamenti seguite questi parametri. E parla anche del nuovo redditometro, sostanzialmente dice che ribadisce che bisogna andare sui casi più plateali, diciamo così, di distanza fra le spese effettive e il reddito dichiarato. E dice anche che il valore unitario dell'accertamento, cioè per ogni contribuente a cui vado a rompere le scatole con il redditometro, ci deve essere un valore di imposta emersa mediamente più alto di quelli dell'anno scorso. Allora si possono fare due righe di calcoli, sostanzialmente saranno tra le 30 e le 35 mila posizioni quest'anno verificate, sì, con questo strumento. Circola già da un po', sì. Esatto, il governo per il 2013 contava di far emergere circa 800 milioni di euro. Allora, se sono 35.000, lo scostamento, cioè l'accertamento, l'imposta diciamo contestata e auspicabilmente per l'agenzia riscossa di ciascuno deve essere almeno di 25.000 euro, perché è semplicemente 815 milioni diviso circa 35.000. Poi bisogna vedere se ne fanno 32, qualcuno ne avrà 10, qualcuno 50. Siccome non avrà un tasso di successo del 100%, allora è probabile che gli uffici dell'agenzia andranno sugli scostamenti che vanno 30, 40, 50 mila euro. Se ci ricordiamo, quest'inverno c'era stata una assicurazione che non si sarebbero rotte le scatole ai contribuenti in cui lo scostamento fosse inferiore a 12 mila euro. In realtà lo scostamento effettivo poi nella pratica sarà molto più alto, perché questo strumento nasce per andare a pescare chi sta in una villa con una bella macchina di lusso in garage e dichiara niente o quasi euro niente. Di pensione. Benissimo, allora guarda, io ti dico che ci sono tantissime domande degli ascoltatori, te ne leggo qualcuna, ma non rispondiamo perché rimando l'appuntamento con te a domani a Salvadanaio. Ci divertiremo con tutti, anche coloro che sono convinti che sarà un bagno di sangue, come ci scrive Nicola, perché dice: i dipendenti delle entrate prendono i soldi sull'accertato, faranno la multa a tutti, quindi l'attività di accertamento attraverso il redditometro sarà così spalmata a 360 gradi. Molti ascoltatori chiedono appunto chiarimenti anche poi come sul tema della difesa, quando appunto l'accertamento sarà chiaramente formalmente partito. Un ascoltatore scrive: il redditometro fa paura solo chi ha entrati in nero, io che ho una busta paga non ho nessuna paura. Per la verità, lo dica questo ascoltatore, anche chi ha un comportamento assolutamente integerrimo nei confronti del fisco ha molto timore appunto di questa nuova attività di accertamento, tema addirittura di non poter giustificare in maniera chiara la natura dei propri risparmi, se per esempio questi sono arrivati da eredità, case che sono arrivate appunto dai genitori, eccetera. Non è così complicato, invece così difficile. Ne parliamo domani a Salvadanaio. Gianni, grazie, a domani. Grazie a voi. E saluto invece chi pesca il microfono adesso, che è Moria Longo del Sole 24 Ore, sempre. Buon pomeriggio. Puntatona stasera, non è arrivata la Cassazione, per cui come avete sentito abbiamo potuto fare la puntata per intero. Con Moria vi presento un'iniziativa, ve lo anticipavo anche prima appunto nella prima parte del programma, che parte domani con il Sole 24 Ore ed è un po' sulla falsariga della puntata di Salvadanaio che abbiamo fatto ieri. Abbiamo proposto ai nostri ascoltatori così: non impigritevi nella sdraio appunto in riva al mare, magari pensate anche un pochino a come avete gestito quest'anno i vostri risparmi, avete fatto delle scelte giuste anche in relazione a quelle che sono le vostre necessità, la vostra propensione al risparmio, in relazione anche a come sono andati i mercati. Abbiamo posto questo interrogativo e domani per un mese il Sole 24 Ore risponde tutti i giorni. Sì, abbiamo previsto un'uscita quotidiana tutti i giorni di una pagina, domani saranno due perché è l'inizio, però comunque certo, diventeranno... inizio col botto, inizierà... Poi siccome le dovrai fare tutte tu, una pagina al giorno. Se no diventa dura la sopravvivenza costana. Certo. Appunto ci sarà una pagina al giorno nel quale si analizzano le diverse tipi di asset class, cioè diversi tipi di investimento, e a quel punto si andranno ad analizzare un po' i rischi, un po' le opportunità, un po' gli scenari futuri, perché ovviamente bisogna guardare al futuro prima di investire, e poi ci saranno dei consigli degli esperti per capire quanto del proprio portafoglio, a seconda di vari profili, noi ipotizzeremo tutti i giorni quattro diversi profili di persone, diciamo ipotetiche, dal single alla famiglia con un figlio, con un certo reddito, quanto del loro patrimonio possono andare a investire nel tipologia di investimento del giorno. Per esempio, domani faremo i titoli di Stato, faremo una pagina per i titoli di Stato italiani, una pagina per i titoli di Stato degli altri paesi, paesi occidentali, per poi paesi emergenti saranno analizzati in futuro. Da altre pagine. E appunto si va ad analizzare quali sono gli scenari futuri, perché per esempio noi veniamo da un anno, dopo il discorso di Draghi del luglio dell'anno scorso, che per esempio lo spread è rimasto quasi sempre stabile, non si è più parlato di spread, le emergenze sui mercati finanziari, almeno in Italia, si sono abbastanza ridotte, anzi è stato un anno buono sia il 2012, alla fine anche il 2013, per un po' tutti i titoli. E quindi andiamo a vedere invece i rischi che per esempio ci sono in autunno dalle elezioni tedesche, l'instabilità politica in Italia, in Spagna, certo, Portogallo, e quindi andiamo a analizzare questo, a vedere come poi praticamente tradurre questo in investimenti. Benissimo, guarda, mi dispiace, avevamo così poco tempo all'inizio, invece come vedi ce l'hanno bruciato, anzi ce lo siamo bruciato molto rapidamente, però insomma magari torneremo a parlarne nei prossimi giorni, così presentando, se vuoi, giorno per giorno, magari ogni 2-3 giorni, le iniziative del giorno successivo appunto sul Sole 24 Ore. Quindi da domani Il Tuo Portafoglio, la nuova iniziativa del Sole, tutti i giorni da venerdì per tutto il mese di agosto, appunto da domani. Grazie Moria, grazie a Mauro Del Corno, Pietro Lacorte, noi ci sentiamo domani a Salvadanaio, domani sera a Focus Economia, buona serata a tutti. Radio 24, la passione si sente.